tuo cuore batte a tempo, un ritmo nuovo mai sentito. Da quel poco che lo ascolto è già il mio pezzo preferito. Mangio merda da 20 anni ma non perdo l'appetito. E poi mi fanno pure fare la scarpetta con il dito. Labbra il gusto di fumo, mischiate col pampero. Rende la testa pesante ma il cuore più leggero. E tu sei il cigno nero, stanco di seguire il branco. Il cuore grande quanto il sole ma freddo come il marmo. Né giovani né grandi, nel cuore piove grandine. Stasera niente alcol, voglio bere le mie lacrime. Una crepa sopra il petto che diventa una voragine, al quale non puoi fare le iniezioni di collagene. Io sono senza scrupoli e tu sei senza carattere. Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere. Se mi fissi bene non vedrai i miei occhi sbattere. Chi sogna ad occhi aperti perde l'uso delle palpebre. La lacrima che brucia, il vento la consuma. Servirebbe dirci che ci siamo amati, tanto quando esce il disco ci saremo già lasciati. Godiamoci il momento perché prima o poi finisce. L'amore spesso prende ma poi non restituisce. Io sto ancora aspettando il cuore che gli ho dato in prestito. Se la vita insegna, io sono un alunno pessimo. È come se facessimo una gara. È un inizio lungo ma la fine non è poi così lontana. Già, sei bella e dannata, la metà mancante di una mela avvelenata. E io cerco il sollievo in una dose di veleno, come chi è stato allattato da chi ha le serpi in seno, con la consapevolezza che non c'è certezza. Vieni, stammi vicina, sì, ma a distanza di insicurezza. Io ti ho dato un dito, invece tu mi hai preso il cuore. Sono sempre stato incline agli sbalzi d'amore. La lacrima che brucia, il vento la consuma. Scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita. Il tuo nome è stato scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita.